solo il suono di una voce, la luce sul tuo viso è quello che ho di te, l'accenno di un sorriso, quello sguardo verso me. Poi momenti di una sera di dolce compagnia, adesso lei non c'è, immagini e poesia, quel qualcosa dentro me. Solo l'ombra di un ricordo, in gola ancora il suo respiro, nell'aria questa melodia che risuona. Sono note di una voce, in mente portate da un sospiro, un ricordo e un po' di nostalgia di una sera. Io ho ancora in un'idea l'amore in un sorriso, e penso ancora a te. Se il tempo ci ha diviso, resti ancora qui con me. Ora pensiamoci di sera per farci compagnia. Qualcosa ora c'è, momenti di poesia, nelle rime siamo noi. Amore fatto di poesia, lo senti dentro al mio respiro, ascolta questa melodia, per te suona. Immagini tornate per magia, riempire ancora il mio destino, sentimento in note di poesia, di una volta.